sono l'uomo, Thomas, io sono l'uomo. Tocca il costato e chiedi perdono. Tu non mi credi, Thomas, tu non mi credi. Asciuga il sangue e guarda i miei piedi. Pistola, Thomas, tu hai una pistola. Il pozzo è fondo e cala giù la luna. Che il tempo scorre e l'orologio rintocchi. Dammi la mano e guardami.